qual fede a un figlio forse non daremo da tiran a me carpito a mentir viene ancor a numi in faccia